Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Nove minuti, inizia un'altra puntata di Focus Economia. Siamo in diretta oggi dalla settima edizione del Salone di Risparmio di Milano. Saluto anche il pubblico fuori che non può partecipare, ma è fuori, può sicuramente ascoltare. Qui al Salone del Risparmio di Milano, a Gattamelata, per chi fosse a Milano, si tiene ogni anno l'appuntamento per l'appuntamento più importante anche dal punto di vista dei prodotti per il risparmio gestito, ma chiaramente per noi sarà l'occasione per ragionare di mercati e di cosa sta capitando in particolar modo a Piazza Affari. Dico subito che oggi c'è un leggero recupero dopo il calo del 3% di ieri, siamo più 0,50%, recupero molto parziale soprattutto per le banche. Il Monte dei Paschi infatti guadagna, recupera lo 0,90%, Mediobanca lo 0,80%, Intesa San Paolo l'1,30%, ma di nuovo pesantemente in calo il Banco Popolare, perde 4,50% e a questo punto il livello di prezzo è a 4,91 euro dopo un'apertura, anzi 4,69 euro, scusatemi, dopo un'apertura a 4,95 euro. Male anche Popolare di Milano, meno 2,20%, UbiBanca meno 1,30%. Cede anche Banca Mediolanum, meno 2,34%, lo dico perché qua ci ha raggiunto negli studi della 24 Ennio Doris, che è insomma molto conosciuto per chi gestisce risparmio, fondatore di Mediolanum, adesso ha ceduto il testimone al figlio dal punto di vista operativo, ma si fa per dire. Intanto buonasera Doris, grazie per averci raggiunto negli studi Radio 24. Buonasera a lei e a tutti gli ascoltatori. Con lei parleremo di cosa sta capitando sulla borsa, le scelte nazionali, le scelte di investimento. Ricordo, Doris è sempre molto ottimista, questo non è di per sé stesso un male, e mi sa che però qualcuno a livello governativo le ha rubato anche lo scettro dell'ottimismo. Però il punto è un altro, è capire perché continuano a essere così penalizzati i titoli bancari. Oggi tra poco ci sarà la fiducia al Senato, ma soprattutto se ne è parlato anche questa mattina inaugurando il salone, si è parlato soprattutto dei GACS. Cosa sono i GACS? Non sono truppe speciali, praticamente sono le garanzie, per dire in maniera un po' brutale, che la Cassa Depositi e Prestiti dovrebbe mettere ai cosiddetti non performing loans, quindi ai crediti inesigibili di cui le banche vogliono disfarsi. Ne abbiamo parlato molte volte, il problema sarà non chi te li compra ma quanto te li compra, perché tutto il braccio di ferro sarà sul livello di prezzo a cui vengono ceduti questi NPL. È chiaro che chi li compra vuole il prezzo più basso in modo da poter guadagnare sul recupero eventuale nei confronti del creditore insolvente, e è chiaro che la banca invece tende a venderli al prezzo più alto perché altrimenti deve mettere in bilancio le sofferenze aggiuntive, e qui si gioca la partita. Di questo parleremo tra poco, ripeto, perché oggi anche il vice ministro dell'economia Morando, intervenuto in aula al Senato, ha detto che la scelta di procedere per decreto sulla GACS è motivata dall'urgenza di fare partire immediatamente la garanzia di Stato sulle cosiddette cartolarizzazioni delle sofferenze, cioè queste sofferenze bancarie vengono impacchettate, cartolarizzate, si inizia una trattativa, ma la garanzia di Stato che abbiamo ottenuto, ricorderete, le concessioni europee solo per la parte più di qualità più alta, è un elemento fondamentale per le banche per spuntare il prezzo migliore, diciamo così, e quindi mettere meno sofferenze in bilancio. Ancora per quello che riguarda le notizie sempre di mercato, segnalo che il petrolio oggi è in netto recupero, e questo può giustificare in alcuni casi il recupero anche di borsa. Penso soprattutto a Saipem più 1,77, Eni più 0,88 per cento. Il petrolio è a 37,3, siamo al 4% rispetto a ieri, ma comunque stabilmente sotto i $40 al barile. Chiudo con la borsa. Per quello che riguarda i titoli che vanno meglio, visto che abbiamo già citato chi va peggio, A2A meno 3,70, Luxottica meno 2,80, Unicredit meno 2%, Terna meno, A2A più 3,80, Luxottica più 2,80, Unicredit più 1,90, Exor più 1,90, Saipem più 1,80, Terna più 1,70 come Snam appunto, e Monte dei Paschi 1,5% come Ferrari e le Poste Italiane. 349 238 6666 è il numero per WhatsApp e SMS, poi la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Rapidamente le altre notizie in breve, ci occuperemo oltre che di risparmio, banche e decreto del governo, anche di pensioni, perché continua ad aumentare il tema, gli 80 euro per le pensioni più basse, cosa fare con i giovani, dichiarazione del ministro Poletti anche oggi. Notizie in breve. Partiamo come sempre dall'economia internazionale. La Russia ha rivisto oggi il suo PIL a ribasso ulteriormente nel 2016, quasi il 2% di recessione economica in Russia, che già ha conosciuto un bruttissimo 2015. Oggi tra l'altro di Russia si occupa anche la Banca Mondiale, sottolineando come al di là degli oligarchi che tutti conosciamo, dei miliardari, diciamo, dell'energia, non solo russi, tutti, diciamo, abbastanza vicini alla corte dello zar Putin, in realtà nel resto del paese non solo aumentano le differenze sociali, ma la povertà potrebbe toccare quest'anno la cifra record di 20 milioni e 300 mila persone. Sono le persone considerate dalla Banca Mondiale sotto la soglia di povertà in Russia, ossia quelle che hanno meno di 142 dollari, 9.600 rubli al mese. E stiamo parlando del 15% della popolazione russa. Dalla Russia agli Stati Uniti il volo Pindari, come in realtà è la notizia, è molto semplice, nulla di fatto, hanno abbandonato definitivamente il tentativo di fusione due colossi della farmaceutica, mi riferisco a Pfizer e Allergan, un'operazione che valeva 160 miliardi di dollari. Sostanzialmente l'operazione si è bloccata dopo la decisione del Tesoro americano di imporre una stretta, un giro di vite sulla cosiddetta tax inversion, ossia il fatto che tu riesca a trasferire all'estero il pagamento del grosso delle tasse sugli utili attraverso operazioni di fusione e acquisizioni per sfuggire al fisco americano. In sostanza, in questo caso la più piccola per motivi fiscali avrebbe acquistato la più grande, cioè Allergan acquistava tecnicamente Pfizer. Ed è stato abbastanza polemico l'amministratore delegato di Allergan, Brent Saunders, che ha detto in un'intervista: beh, è anti-americano cambiare le regole quando la partita è iniziata, e il tesoro americano con questa stretta sulla tax inversion rende l'America meno competitiva. E a proposito di tasse, oggi non ci sono enormi sviluppi sui cosiddetti Panama Papers, però la Francia chiederà all'OCSE di rimettere Panama sulla lista nera, sulla blacklist dei paesi che non hanno nessun tipo di collaborazione fiscale con gli altri paesi, e sappiamo che questo poi comporta tutto un insieme di conseguenze negative per quei paesi, tant'è che perfino la Svizzera ha fatto i salti mortali per uscire da questa lista nera. In Gran Bretagna continua la polemica sul padre di Cameron, anche se il primo ministro David Cameron ha detto che né lui né i suoi figli godranno neppure in futuro dei fondi offshore, ma insomma dubito che Cameron se la possa cavare con questa rassicurazione, sicuramente non basta ai britannici. Il ministro Padoan questa mattina ha inaugurato il Salone del Risparmio, dove ci troviamo qui a Milano, e ha parlato tra le altre cose anche di banche, ma in primo luogo di crescita. Nel documento economico-finanziario che verrà approvato nei prossimi giorni abbiamo valutato l'impatto delle misure contenute nel pacchetto per la crescita, e tutte le simulazioni ci indicano una crescita aggiuntiva dello 0,2% rispetto allo scenario base e dell'1% in più sul lungo periodo. Nel documento di economia e finanza che verrà pubblicato nei prossimi giorni ed approvato dal Consiglio dei Ministri abbiamo valutato l'impatto delle misure contenute in questo pacchetto. Le simulazioni effettuate con i modelli del MEF indicano che l'insieme delle misure introdotte potranno generare una crescita aggiuntiva dello 0,2% del PIL rispetto allo scenario base e sino all'1% in più di PIL nel lungo periodo. E però il tema che abbiamo affrontato sia ieri che l'altro ieri, di questa crescita discontinua, lenta ma soprattutto discontinua, per cui hai botte d'arresto continue, viene evidenziato oggi anche dall'indicatore dei consumi di Confcommercio. Torna a aumentare dopo due mesi di ribassi, l'indicatore dei consumi è in crescita dell'1,4% rispetto al 2015, rispetto al marzo del 2015, una crescita dello 0,3% rispetto al mese precedente, l'aumento più significativo mese su mese ha riguardato i beni e i servizi per la mobilità, soprattutto l'acquisto di auto. Devo dire che tutti i dati sui consumi sono abbastanza falsati, per così dire, dall'andamento ottimo del settore auto, per cui sembra che va a migliorare tutto il dato complessivo. Poi però, se guardiamo i consumi alimentari, per esempio, notiamo ancora molte difficoltà. Restando in Italia, oggi il ministro al lavoro Poletti ha detto che verrà cambiato il tironcino di garanzia per i giovani. Da giugno non verrà più data una copertura al 100% pubblica, ma l'azienda dovrà pagare una percentuale. Qual è il motivo di questa modifica? Beh, evitare che i tirocini vengano utilizzati in modo sbagliato, e cioè sostanzialmente che lo Stato paghi quello che è un lavoro di fatto e non un vero tirocinio. Tra l'altro, intorno al 40%, visto che sui 500 euro previsti solo 300 resterebbero a carico pubblico, il 40% a questo punto sarebbe a carico del privato. E poi Poletti ha ribadito che la decontribuzione e quindi gli sgravi, soprattutto l'anno scorso, fino a 8.000 euro all'anno, sgravi contributivi, quest'anno sono scesi a 3.250 euro, ma hanno favorito soprattutto i giovani. Nel 2015 307.000 nuove assunzioni, non le trasformazioni, ma nuove assunzioni a tempo indeterminato, che hanno coinvolto soprattutto i giovani con meno di 30 anni. E poi è venuto al tema della di contribuzione biennale, perché ci sono molti dubbi sul fatto che la decontribuzione di quest'anno possa portare, diciamo così, agli effetti dell'anno scorso, visto che vale la metà. Su questo lo ha intervistato il nostro Vincenzo Miglietta. Io penso di sì, anche perché noi abbiamo una linea molto chiara in questo senso. Noi vogliamo non solo più posti di lavoro, ma anche un miglior mercato del lavoro. Perché questo accada, abbiamo bisogno di meno precarietà, e per avere meno precarietà bisogna fare in modo che il contratto a tempo indeterminato sia un contratto che costa strutturalmente e per sempre di meno. L'abbiamo fatto con la decontribuzione nell'anno passato, lo facciamo quest'anno e lo faremo in futuro. Quindi io credo che questa sia una linea scelta e gli imprenditori possono tranquillamente assumere a tempo indeterminato, perché è questo quello che noi faremo. Allora, vedo molti messaggi al 349-238-6666 sul tema delle pensioni. Ne parleremo nella seconda ora. Devo dire onestamente che, al di là di tanti dettagli, insomma, nemmeno io ho capito, lo dico molto modestamente, perché riemerga con forza il tema delle pensioni. Nel senso che, a pensar male, uno dice perché ci sono le amministrative. Vabbè, lo so, lo scrivete. Però, diciamo, proprio la Corte dei Conti la settimana scorsa ci ha detto che la riforma Fornero e le varie riforme effettuate in questi anni hanno avuto un effetto anche superiore, diciamo, alle attese, 30 miliardi di risparmi. Non capisco, al di là della flessibilità in uscita, che è un dramma per molti lavoratori, ci mancherebbe, ma non capisco questo improvviso risvegliarsi del tema a partire dagli 80 euro per le pensioni più basse. Non lo capisco in termini economici, diciamo, in termini politici forse è più chiaro. Allora, domani e nei prossimi giorni, venerdì 18, abbiamo l'appuntamento con la nostra poco invidiabile classifica sugli sprechi della pubblica amministrazione. Oggi il commissario, il presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, e quindi Raffaele Cantone, ha stimato in 6 miliardi di euro l'anno il costo della corruzione nella sanità. Noi ne raccontiamo uno spicchio, delle volte delle briciole, tutte assieme, visto che c'è sempre chi scrive ma di cosa vi occupate, no, tutte assieme. Il 37%, vuol dire un'azienda sanitaria su tre, ha avuto e ha registrato episodi di corruzione negli ultimi 5 anni, e non lo afferma Cantone, lo affermano i 151 dirigenti delle ASL che hanno partecipato all'indagine sulla percezione della corruzione organizzata da Transparency International Italia, Censi, ISPE e quant'altro. Quindi 6 miliardi all'anno. Tant'è che Cantone dice: la sanità, per l'enorme giro d'affari che ha intorno, per il fatto che anche in tempi di crisi è un settore che non può essere sottovalutato, cioè non può essere compresso, è terreno di scorribanda da parte di delinquenti di ogni risma. E contro la corruzione della sanità abbiamo messo in campo strumenti nuovi, delle linee guida su cui intervenire, delle liste d'attesa, ma anche gli ambiti legati alle aziende farmaceutiche e persino la gestione delle sale mortuarie. Lo ha chiarito lo stesso Cantone, che chiede che le liste d'attesa diventino trasparenti anche se ci sono in gioco i valori della privacy. Sappiamo come funziona, liste d'attesa lunga spostano poi il cittadino verso il privato, delle volte c'è la connivenza anche dei medici in questo, che hanno più interesse nello spostare la visita o l'operazione nel settore privato, dove guadagnano, che non nel settore pubblico. 2 milioni di italiani hanno pagato bustarelle per ricevere favori in ambito sanitario e 10 milioni hanno effettuato visite mediche specialistiche in nero, lo dice Davide Faraone, che è il sottosegretario all'istruzione, appunto, nella prima giornata nazionale contro la corruzione nella sanità. 806 milioni di danno erariale per frodi e sprechi. Da sola la sanità fa il 14% di tutti i danni erariali complessivi verso lo Stato. Allora, nel frattempo oggi abbiamo saputo che la Sicilia, pur dovendo tagliare 400 milioni di euro di spesa e avere congelato altri 500 milioni di euro che riguardavano i fondi per i precari, gli sprechi gli sprechi nella spesa sanitaria, aveva 500 milioni di euro per ripianare fondi e dei comuni e poi cercare una trattativa con lo Stato per quello che manca nelle entrate fiscali. Però, nonostante abbia congelato questo mezzo miliardo, tagliato 400 milioni, è riuscito il governo siciliano a trovare 224 mila euro per comprare 2 auto blindate che con tutti gli optional, una Volkswagen Passat Variant e, anzi, 2 Volkswagen Passat Variant. Ora, 224 mila euro per 2 auto blindate, un po' tantino, no? Vedo che annuisce anche Doris, non so, poi ci dice quanto costa un'auto blindata. 224 mila euro, 120 mila euro ogni auto blindata, vabbè, ma l'importante è sapere per cosa. Comunque, ultimo tema e poi passiamo al risparmio gestito. Telecom ha fatto marcia indietro, diciamola tutta, perché dopo aver risposto a muso duro l'autority sulle telecomunicazioni, l'Agicom, che aveva bocciato l'aumento tariffario della telefonia fissa e l'aveva bocciato motivandolo: non c'è inflazione, non c'è crescita economica, perché dovete aumentare i costi della telefonia fissa? E Telecom aveva detto: noi proseguiamo. Adesso invece ha sospeso Team Prime, che era la tariffazione bocciata dall'autority per le telecomunicazioni, ha sospeso l'offerta Team Prime. Ricordo che Agicom aveva già multato Vodafone per 1 milione di euro a metà marzo per aver attivato senza il consenso dei clienti il servizio Vodafone Exclusive e evidentemente ci deve aver ripensato anche Telecom Italia. Al microfono della nostra Livia Zancaner, il commissario dell'Agicom Antonio Prieto. Servizi nuovi non richiesti dal cliente, che venivano aggiunti rispetto a una tariffa che era a consumo e che diventa così una tariffa parzialmente flat, pagando 49 centesimi a settimana. Non sono una modifica contrattuale che può essere, che può venire meno soltanto con un intervento ex post a posteriori del cliente stesso, ma deve avere invece l'autorizzazione preventiva, perché qui c'è proprio sono servizi veramente nuovi e non richiesti dal cliente stesso. Non poteva rientrare nell'ambito di questo ius variandi, che è diritto di modifica contrattuale che gli operatori hanno rispetto ai contratti del cliente, per i quali possono introdurli e poi chiedere al cliente se li vuole o non li vuole, anzi dire al cliente: guarda, se non li vuoi disdici o ricevi. È una pratica diffusa, per così dire, tra le società di telecomunicazioni? Diciamo che anche altri operatori hanno avuto provvedimenti a parte dell'antitrust in merito, quindi sì, una pratica che può essere definita non esclusiva, ecco, di Telecom. Dimmi. Allora, 17:27 minuti, iniziamo a parlare con Ennio Doris, poi parleremo anche di pensioni. Intanto i temi bancari, che sono quelli che stanno affossando in molte giornate la borsa. Abbiamo ascoltato prima le varie ipotesi circolate. Le voglio far ascoltare, Doris, che cosa ha dichiarato oggi il ministro Piercarlo Padoan. Lei l'avrà sentito questa mattina, però lo faccio ascoltare anche a tutti gli altri proprio sulle banche, e chiaramente sullo sfondo c'era il tema dei GACS, quindi delle garanzie, del decreto che deve portare delle garanzie della Cassa Depositi e Prestiti sulle sofferenze di maggiore qualità. Sentiamo Padoan. Pacchetto di misure che ha portato con il decreto legge del 18 febbraio di quest'anno il meccanismo di garanzia per la cartolarizzazione delle sofferenze, noto come GACS, sofferenze presenti nei bilanci bancari, condiviso con la Commissione europea. Si tratta di un meccanismo che vuole favorire lo sviluppo del mercato italiano delle sofferenze e dei crediti in sofferenza, facilitando l'accesso ad investitori con orizzonti di medio-lungo periodo e contribuendo a ridurre le forbici di prezzo fra chi vende e chi acquista. Dal mercato arrivano primi segnali incoraggianti a conferma che i GACS sia uno strumento utile per smaltire progressivamente lo stock di crediti deteriorati. Allora, Ennio Doris, poi veniamo alle sue prospettive, immagino ottimistiche, perché lei è un inguaribile ottimista, sì. Però se fosse pessimista stavolta avremmo anche la notizia. Ma parliamo di cosa sta penalizzando le banche. Voi anche oggi, anche voi oggi non andate bene, meno 2,42% la chiusura, però voi non avete prestiti alle imprese, se non ricordo male, in ammontare. La sensazione è che ci sia un atteggiamento complessivo di negatività nei confronti delle banche, che parte da queste sofferenze. Allora, come se ne esce? Perché spiegavo prima che chi le compra vuole scontare il prezzo più basso. Certo. Chi le vende, le banche, vuole venderle, se io ti devo 100.000 euro, vuole girarle a qualcun altro, poniamo a 70-60.000 euro, non a 20.000 euro, perché sennò deve incamerare ulteriori perdite in bilancio, e quindi? Guardi, prima di tutto bisogna inquadrare questo calo delle banche, dovuto soprattutto a questo tema, a un calo generale di tutto il sistema bancario europeo, che si è verificato in questi ultimi tempi, dovuto a due fattori. Uno, con i tassi così bassi le banche non riescono più ad avere margini nell'intermediazione del denaro. Cioè prendere prestito a tassi bassi e prestare ai clienti a tassi più alti nel medio termine. Ma basti pensare che quando potevano prestare anni addietro al 10%, supponiamo, e il risparmio gli costava il 3%, avevano un margine di 7%. Che era anche troppo. Adesso le aziende migliori ottengono prestiti anche inferiori all'1%, o al 2, o al 3, o al 4, quindi mediamente prestano il denaro a un 3%, anche se costa zero, se n'è andato tutto il margine. E quindi questo è un problema di tutta l'Europa. In Italia abbiamo l'aggravante di questa storia delle sofferenze. Devo far notare che questo problema è nato perché abbiamo alle spalle una crisi la più lunga del dopoguerra, durata 7 anni, che ha fatto esplodere i fallimenti, e siccome l'economia italiana ha un punto debole, il finanziamento dipende quasi tutto dal sistema bancario, l'80%, negli altri paesi europei è nettamente inferiore, in America addirittura il 30%. E allora è chiaro che quando l'economia va male ci sono i fallimenti, le banche vanno in difficoltà. Per una crisi di durata 2 anni il problema non si sarebbe posto, ma dopo 7 anni siamo qua. Allora ci troviamo in una situazione simile a quella che gli altri sistemi bancari si sono trovati ad affrontare dopo il fallimento di Lehman, quando in tutto il mondo sono state spese cifre enormi, comprese in Europa, cifre pubbliche, per salvare i sistemi bancari che avevano esagerato con le operazioni finanziarie. Noi in quel momento non eravamo in quella condizione e quindi lo Stato non è intervenuto. Ci siamo arrivati adesso, ma non per operazioni finanziarie fasulle, ma per proprio la lunghissima crisi economica. Ora, non è tanto importante salvare le banche, è importante fare qualcosa a favore dell'economia, e se non si mettono le banche in grado di erogare, e allora l'economia ne soffre. Purtroppo in Europa quello che fa la mano destra, intendo Draghi, che cerca di fornire liquidità eccetera, la mano sinistra lo disfa come la tela di Penelope. Parlo della vigilanza europea. Quando noi prendiamo la fusione fra due banche, Banco Popolare e Popolare di Milano, che erano giudicate capitalizzate sufficientemente prima da sole, poi annunciano la fusione e li obbligano a questo punto all'aumento di capitale. Obbligano solo il Banco Popolare, in realtà. Solo il Banco Popolare. A 1 miliardo di aumento di capitale, è chiaro che poi il titolo inizia a andare giù finché non si riposiziona a livello. Questo è un po' il problema. Sì, Doris, dopo il meteo e la pubblicità, vorrei capire una cosa però. Chiarissimo lo scenario. Devo dire che secondo me c'è stato anche un errore dei banchieri italiani negli anni scorsi nel ripetere troppo e troppo sovente che le nostre banche erano diverse, che le nostre banche non erano finanziarizzate, che non parlavano, nel senso di quelle anglosassoni o britanniche, che non parlavano tanto l'inglese. Ci siamo illusi che soprattutto anche le piccole, le popolari e le BCC avessero una solidità diversa. Questo non ci ha fatto utilizzare le finestre che hanno usato gli altri. Penso alla Germania, che con 270 miliardi ha salvato le casse di risparmio regionali, ha salvato Commerzbank, Deutsche Bank e quant'altro, e le ha sistemate perché si poteva. Siamo arrivati lunghi e faccio notare che c'è stata la crisi per tutti, però in alcuni casi, lei è veneto come sono io, sa benissimo che in quella regione tra Treviso e Vicenza si sono bruciati 10 miliardi di risparmi veri dei cittadini, per cui c'è anche una responsabilità degli ex vertici della Popolare di Vicenza e di Veneto Banca. Di questo parliamo però perché vorrei sentire il suo commento anche sulle responsabilità dei vertici bancari raccontarci e raccontarsi per tenere la carega, così uso anche un termine veneto, più a lungo, che tutto andava bene ma dava la Marchesa, dopo il meteo e la pubblicità. Focus Economia. Per la ripresa degli investimenti occorre rafforzare il sistema bancario e, come è noto, il governo ha avviato un'ampia misura di riforma su diversi livelli per rafforzare il sistema bancario. Ricordo le misure in termini di materia di governance, quale la riforma delle banche popolari, la riforma delle fondazioni bancarie e quella di banche di credito cooperativo. Si tratta, in altri termini, di misure che tendono sia a rafforzare il sistema del credito, sia a lasciare alle spalle l'eredità molto dolorosa di 3 anni di recessione profonda, a cui il sistema del credito ha peraltro resistito assai bene, anche in un contesto nel quale l'economia ha perso quasi 10 punti di PIL. La riforma delle banche popolari, dall'entrata in vigore della riforma, è stata resa nota al mercato la prima operazione di fusione nel segmento delle banche popolari con contestuale trasformazione in società per azioni. Da ciò nascerà il terzo gruppo bancario italiano. La riforma ha avuto anche come effetto la trasformazione della più grande banca popolare quotata italiana e di altre banche popolari. Allora, Ennio Doris, così un altro passaggio questa mattina del ministro Padoan. Dicevo, tutto vero, la crisi. Però anche i vertici o gli ex vertici in molti casi delle banche italiane hanno avuto una responsabilità nel continuare a raccontare che tutto andava bene, diciamo così, allora, forse per tenere la loro poltrona. È vero quando dicevano che le banche italiane erano diverse, tanto è vero che i motivi della crisi... Sono i banchieri che sono uguali. Forse. No, è il motivo della crisi che è diverso. Le banche che sono state salvate per operazioni finanziarie, diciamo, dove la finanza ballava. Ma questo non vuol dire che le banche italiane fossero esente da rischi. E siccome noi siamo in un sistema in cui l'80% del finanziamento dell'economia dipende dalle banche, mentre negli Stati Uniti in 30, è chiaro che una crisi economica ha effetti sui bilanci delle banche molto più pesanti di quello che succede negli Stati Uniti. Quindi, di fronte a una crisi, e là le do ragione, di fronte a una crisi le banche dovevano muoversi, siccome era una crisi che continuava, vendendo i non performing loans, cioè i crediti in sofferenza, a partire già dal 2011, e in quei momenti avrebbero potuto realizzare cifre diverse perché non c'era l'ondata che c'è adesso. Aggiungo, perché lei è troppo buono, intanto riconoscere veramente le sofferenze. Noi sappiamo che molte banche non hanno voluto riconoscere che certi crediti erano in sofferenza, perché quando è una sofferenza devi metterli in bilancio e devi mettere degli accantonamenti, cioè dei soldi in cascina, perché te lo chiede la BCE e le regole europee. In base alle sofferenze deve avere dei soldi da parte per gestire queste sofferenze. Era comodo non dirlo, nel senso non solo per un ottimismo della volontà, anche perché abbelliva i bilanci. Ma questo è assolutamente vero, e ci saranno certamente dei casi del genere, ma osservando a livello generale la crisi ha provocato l'esplosione dei fallimenti e quindi delle sofferenze. E siccome le prospettive erano queste, se uno voleva guardare al futuro doveva prendere il toro per le corna e immediatamente muoversi collocando sul mercato in maniera tale da non trovarsi improvvisamente con una massa enorme. E questo è l'errore che abbiamo fatto nel passato. Nel presente, secondo lei, che cos'è che rende così scettici gli investitori su tutti i titoli bancari? Quindi adesso veniamo anche alle sue, non ai suoi consigli, ma ieri abbiamo avuto l'amministratore delegato di Saxo Bank, nonché l'amministratore delegato di European House Ambrosetti. Anche a lei chiederò, insomma, che prospettive vede negli investimenti. Ma venendo alla prima parte della domanda, perché tutto questo scetticismo? Ho capito che la Banca Popolare hanno obbligato a fare 1 miliardo di aumento di capitale, però insomma inizierà una trattativa, sembra che però tutti gli investitori siano molto molto negativi, nonostante il decreto del governo sui GACS e quindi sulle garanzie che darà la Cassa Depositi e Prestiti sulla parte migliore, diciamo, di queste sofferenze. Allora, c'è un atteggiamento negativo nei confronti delle banche in generale, parlo dell'Europa, sulla quale si innesta la negatività nei confronti delle nostre per via dei crediti in sofferenza, dovuto a un cambiamento epocale che sono, come dicevo prima, i tassi bassi, non ci sono più margini nella compravendita del denaro, non solo qua ma anche in Germania e in altri paesi. E poi la rivoluzione tecnologica, il fatto che la gente usa internet, non paga più le commissioni di prima, e quindi c'è un forte calo dei ricavi che erano le due fonti principali di reddito delle banche. Allora, questa è la situazione nuova e non si modificherà, anzi si accentuerà dal punto di vista dei ricavi, per cui è un settore che non può dare gli utili che dava nel passato finché non faranno un taglio dei costi veramente molto forti e non ci sarà un vero cambio di modello con altre fonti di reddito come la gestione del risparmio. E qui veniamo all'ultima parte dell'intervista, cioè i suoi consigli, dove sta mettendo lei i soldi, dove li sta facendo mettere soprattutto i suoi clienti. Perché se ho ben capito il suo ragionamento, per carità, il governo adesso farà il GACS e inizieremo a collocare, a cartolarizzare queste sofferenze bancarie, liberando da questa zavorra, ci auguriamo, le banche, che ci auguriamo a questo punto, tra i soldi che gli dà Draghi, comprando titoli di Stato e generando liquidità, i soldi che Draghi mette a disposizione alle banche purché li girino alle imprese e non per i mutui alle famiglie, e liberati dalle sofferenze, a questo punto non avranno più scuse per prestare i soldi alle imprese. Detto ciò, però, mi sembra che lei dica attenzione, il mondo bancario in questo momento soffrirà ancora per un po', e allora vorrei capire dove mettere i soldi dopo il traffico. Focus Economia. Allora, prima di arrivare ai mercati finanziari, ma in realtà adesso la chiusura è più 0,77, ne stiamo parlando dall'inizio programma di mercati di investimenti, faccio notare che oggi sempre qui al Salone del Risparmio il presidente di Intesa San Paolo, Gian Maria Grospietro, ha detto attenzione, sì, i GACS, le garanzie della Cassa Depositi e Prestiti vanno bene, ma il problema è più ampio, e poi se questi non performing loans, queste sofferenze verranno ceduti ai cosiddetti fondi avvoltoio perché le vogliono a pochissimo prezzo le banche, e poi avvoltoio anche quando vanno dall'imprenditore a, diciamo, ottenere il massimo, ci sarà un grosso problema anche per le piccole e medie imprese. Chiuso la parentesi, Doris, i rendimenti delle obbligazioni, titoli di Stato, se non sono in negativo poco ci manca. Abbiamo visto minimi storici, va benissimo a noi italiani come cittadini, va meno bene a noi italiani come risparmiatori che vogliamo investire. La borsa, insomma, lei stesso diceva che il settore bancario non è che lo veda così tranquillo per i prossimi mesi finché non sistema tutti questi mal di pancia. Dove li mettiamo i soldi? Ma guardi, purtroppo è finito per il risparmiatore un'epoca. Doris negativo è la prima volta, dunque lei è ospite di questo. Dal 99 ogni tanto ciclicamente viene, lei ha sempre detto guardate nel medio e lungo termine. Certo. Però, ma continuo a dire così, ma bisogna tener conto di che cosa è cambiato. Nel campo delle banche le porto il parere del presidente del BBVA, una delle 35 banche al mondo too big to fail. 3 anni fa ha detto che questa evoluzione della tecnologia porterà contro le attuali 20.000 banche analogiche esistenti nel mondo, analogiche con filiali, alla sopravvivenza solo di alcune dozzine nel mondo. Cosa vuol dire alcune dozzine? 200 banche, 400 banche. Alcune dozzine, 400 banche sono 35 dozzine. 1.000 banche vuol dire che 1.000 su 20.000 il 95% scompare. E in questi giorni ha annunciato che chiuderà il 75% delle filiali. Stiamo parlando del banco di Bilbao Vizcaya, cioè, che è una delle due banche più grandi in Spagna, una delle banche più grandi d'Europa. Ecco, esatto, e del mondo anche. E del mondo. Ecco, questo per dire la prospettiva. Io sono ottimista per la mia azienda, naturalmente. Detto questo, che è una situazione assolutamente nuova, perché il modello bancario, come ha funzionato per 5 secoli, è morto. Punto. Per quanto riguarda i risparmiatori, noi abbiamo alle spalle 3,5 decenni in cui investire del denaro sicuro, un titolo di Stato e avere un po' di reddito era semplicissimo. Oggi è morto, i tassi sono addirittura negativi. Per avere l'1 e qualcosa per cento, l'1,20 lordo, bisogna investire a 10 anni. È pazzesco, è una situazione che non si è mai vissuta. Allora l'unica possibilità per avere più reddito è aumentare il rischio. E aumentare il rischio è pericoloso, perché se compro un titolo di un paese emergente che mi dà il 6%, poi salta, ho perso tutto il capitale. Allora, l'idea che ha fatto nascere i fondi comuni, che sono nati per investire nel mercato azionario un secolo fa, che era mercato naturalmente pericoloso, bisogna utilizzarla per il mercato obbligazionario. Quindi, facendo un portafoglio di paesi emergenti, di titoli emessi da società, eccetera, è possibile fare un portafoglio che dia cedole del 3-4%, ma con centinaio, addirittura migliaia di titoli, per cui quando qualcuno ha delle sofferenze o non paga, eccetera, è annacquato in questo modo. Ecco che allora si può farlo, ma è morto il fai da te. Una cosa però, scusi, se ho ben capito, se io avessi 10.000 euro e glieli volessi dare, nel senso, lei me li metterebbe tutti in un fondo obbligazionario misto, cioè un po' titoli di Stato e un po', dipende, e un po' corporate? No, no, dipende dalle sue esigenze, perché se lei quei 10.000 euro fra un anno li deve spendere, gli faccio un deposito allo 0,8 e finito. Ok, e se invece li voglio tenere per 5 anni? Per 5 anni allora è possibile costruire un portafoglio che dia un tasso a 5 anni fra il 2 e il 3%, a 10 anni fra il 3 e il 4%. Un portafoglio molto molto diversificato. Nel frattempo vedo che è arrivato l'ok del Senato alla fiducia sul decreto banche, quello di cui parlavamo, che contiene anche la riforma delle BCC. Domani avremo un approfondimento anche su questo, non ce la facciamo adesso. Dopo il GR24 vorrei parlare di borsa e di pensioni anche, però volevo restare sul tema di quella che una volta si chiamava asset allocation. Qua sì, mi sembra che sia allocation e basta, perché gli asset si stanno riducendo. Lei esclude materie prime, esclude le cosiddette commodities, e sulle aree geografiche dove? Perché allora, una delle grandi delusioni del 2015 e anche del 2016 sono stati i BRICS, allora, cioè le economie emergenti ormai, cioè, che devono produrre ricchezza. Che adesso stanno riprendendo però in borsa. Quello che voglio dire, no, stanno riprendendo in questi ultimi tempi. Quello che voglio dire è, io credo nella diversificazione, perché il futuro non lo conosce nessuno. Quindi se parliamo di investimenti finanziari, allora ci vuole una diversificazione, secondo me, mondiale. L'economia, se parliamo di azionario, l'economia mondiale. Se io ho l'economia mondiale nel mio portafoglio, sono tranquillo anche se qualche paese o qualche settore va male. Quindi i miei 10.000 euro a 5 anni, diciamo che non ne ho bisogno per 5 anni. Un periodo breve, portafoglio obbligazionario. E a 10 anni? A 10 anni io andrei molto anche sul portafoglio azionario. È quello che faccio io personalmente. Ma azionario dove? Tutto il mondo. Rispettando i pesi delle economie, quindi un 40% circa negli Stati Uniti, un peso uguale in Europa e un 20% fra paesi emergenti e altri settori. Valutario e commodities, così chiudiamo, nulla? Valutario viene automatico, perché investendo negli Stati Uniti c'è di mezzo il dollaro, sono investimenti in dollari, per fare un esempio. Per quanto riguarda investimenti tipo commodity, sono da esperti, sono da specialisti del settore, noi stiamo parlando di risparmio. e quindi io mi limito a questo settore. Poi si parlava prima del settore immobiliare, se uno ha sufficienti disponibilità e si prende e si compra la propria casa, secondo me fa bene. Se uno ha sufficienti disponibilità e si compra una seconda casa, secondo me fa bene. Quindi, per riassumere, nel brevissimo un conto corrente di deposito, certo. Nel medio termine, 5 anni, breve, medio, obbligazionario di tutte le specie, diciamo, sì. Un misto obbligazionario, e a 10 anni invece anche una quanta parte di azioni su 10.000 euro? Questo dipende dalla propensione, diciamo, al rischio a volatilità del cliente. Nel caso mio il 90% va in azioni, normalmente mio... 50, diciamo. Nel caso mio anche il 20, va bene. Ecco. Grazie al presidente di Banca Mediolanum Ennio Doris, c'è il GR24, poi andiamo sulla borsa. E su questo tema, che così all'avvicinarsi delle amministrative ritorna in maniera prepotente e preponderante, le pensioni, gli 80 euro, le pensioni, gli 80 euro. Sono Giovanni Minoli e vi aspetto tutti i giorni dal lunedì a venerdì, dalle 9 alle 10 e mezza, con l'attualità su Mix 24 e Gialli della Storia, naturalmente su Radio 24. Ascoltaci anche in digital radio. Il segnale orario vi è offerto da Pantera col TH, l'ERP di Infracom Italia, anche in cloud. Tutti i giorni, dalle 14 alle 15.30, il professor Genta e il professor Pardo, tutti convocati. Tutti convocati, sempre. Un'ora e mezza, 90 minuti, il tempo della partita, grande entusiasmo, ottimismo. Sempre su Radio 24, la passione si sente. Focus Economia. Sono le 18:07, di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni qui dal Salone del Risparmio di Milano. Dopo questa lunga intervista con Doris anche sulle banche, aver ascoltato e vi abbiamo aggiornato in diretta sul passaggio al Senato del decreto che riguarda anche le BCC. Beh, di borsa adesso commentiamo il resto. Banco Popolare -3,38, abbiamo già fatto ampiamente di banche. Banca Mediolanum -2,12, Pop Milano -1,40%, e ancora Ubibanca -1,20, Banca Popolare Emilia Romagna -0,55%. Invece fronte opposto vede Monte dei Paschi guadagnare il 2,70% e Unicredit l'1,70%, Intesa +1,20%. In recupero il petrolio, questo porta l'Eni a guadagnare l'1% e Saipem l'1,94%. Come sempre con Radio Cori, Sole 24 Ore, Flavia Carletti, buonasera. Buonasera a tutti. Al di là di banche e petrolio, oggi abbiamo visto andare molto bene A2A, su cui vorrei un commento, però sull'Eni poi dirò anch'io due cose che riguardano da parte della chimica, e facciamo A2A e Fiat, grazie. Sì, A2A appunto è stato il migliore tra i titoli a maggiore capitalizzazione di Piazza Affari grazie ai conti del 2015 che sono stati pubblicati prima dell'apertura del mercato. A piacere in particolare agli investitori sono stati il debito netto, che è stato nettamente migliore delle attese secondo alcuni analisti, e poi la crescita dell'EBITDA e dell'utile netto sopra le previsioni anche in questo caso. E CDA inoltre ha proposto la distribuzione di un dividendo che è del 13% superiore a quello dell'anno scorso, pari a 0,041 euro per azione. Ancora per quello che vai. No, appunto, solo un accenno a FCA, appunto, come mi avevi chiesto, che ha perso l'1,32% e oggi è stata una giornata. Dopo il calo di ieri e delle sedute scorse, lì c'entrava Peugeot, però insomma continua a esserci un mercato scettico sui titoli auto, Flavia. Sì, esatto, su tutti i titoli auto europei, perché anche Peugeot e Renault sono stati sotto pressione oggi nella seduta di oggi. A Francoforte, che era stata, diciamo, la borsa più debole fino all'accelerazione che c'è stata in chiusura, gli operatori parlavano proprio di un calo dettato dalle vendite sul settore auto. Poi alla fine invece Francoforte nel recupero ha visto un andamento, diciamo, contrastato del comparto, con Daimler che ha chiuso dello 0,9%, mentre invece alla fine Volkswagen e BMW si sono riusciti a salvare e hanno guadagnato leggermente nell'ordine dello 0,5%. Allora, appunto, rapido oggi l'aggiornamento, visto che parliamo di mercati da inizio del programma, devo citare alcune dichiarazioni di Claudio Descalzi, che era amministratore delegato dell'Eni, perché oggi, dopo aver ricordato che sul fronte della chimica non, la vicenda Versalis, non so se si chiuderà con SK, ha detto De Scalzi, ma se non ci sono le garanzie finanziarie neanche morti non si chiude. E poi è andato sull'ENI e ha detto: sono fiero di vivere in quella che alcuni definiscono una pattumiera. Immagino che il riferimento fosse alle polemiche, all'inchiesta che riguarda la Val d'Agri e appunto la Basilicata. È casa mia ed è la più bella e pulita del mondo, ha detto De Scalzi in audizione, aggiungendo: chi dice che l'ENI è una pattumiera venga a dirmelo in faccia. E poi sulla Val d'Agri De Scalzi ha ribadito di voler andare fino in fondo per dimostrare la correttezza dell'ENI. Teniamo ferma la produzione per 2-3 anni, non mi interessa, voglio andare fino in fondo, abbiamo e ho la coscienza a posto. E poi ha aggiunto che la riduzione dei costi in ENI, i 2 miliardi e mezzo di riduzione dei costi, saranno fatti senza tagliare un posto di lavoro. Allora abbiate pazienza, tutto si può dire, abbiamo letto di tante di quelle imprecisioni, la vicenda della Val d'Agri, una vicenda su cui indaga la magistratura, i reati, c'è già stata una sentenza 2 giorni fa del Tribunale di Potenza, i reati, se verranno accettati, devono essere perseguiti. Da lì a dire che poi chi fa petrolio, nel caso specifico l'ENI, una pattumiera, è una grandissima cavolata di chi non conosce l'ENI, non conosce le sue competenze, non conosce il fatto che dovunque vada nel mondo diventi un vanto dell'italianità. Può piacere, può non piacere. Se poi decidiamo che estrarre petrolio è un po' come mangiare carne, per usare un tema caro a Radio 24, allora vabbè, decidiamo che non estraiamo più petrolio, che non mangiamo più carne, e poi mi raccontate dove vanno i dipendenti della filiera alimentare e i dipendenti dell'ENI. Vanno a casa vostra, immagino, vi do alcuni messaggi. Però attenzione, un conto sono le inchieste della magistratura su casi specifici e vanno perseguiti e arrestati i responsabili, altra cosa è fare tutto nel buon fascio. Abbiamo raccontato molte volte come delle poche multinazionali di eccellenza che abbiamo, ENI sia una di queste, capace di andare sui mercati, di penetrare i mercati, è il vero ambasciatore in molti casi più della Farnesina nel nostro paese. Quindi non confondiamo la cioccolata con qualcos'altro che sta emergendo invece anche nella Val d'Agri. Grazie a Flavia Carletti, cambiamo tema, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp. Cambiamo tema, dicevo, e occupiamoci di queste pensioni che in maniera così dirompente, come una piccola palla di neve che diventa una slavina, stanno diventando tema e dibattito quotidiano. Allora, sì, no, guardate, non ho nessun problema. Un conto sono, torno sull'ENI, sono reati specifici, in questo caso tra l'altro di mezzo c'è la Total in primo luogo, e poi comunque anche l'ENI. Vale anche, chi me lo scrive, anche per Finmeccanica, non ho dubbi, è una grandissima impresa italiana che fa concorrenza ai francesi, agli americani nel settore dell'aerospazio e difesa. Dopodiché, se vogliamo che questo paese produca solo cipolli tropea, mozzarelle biologiche, va benissimo, mi spiegate dove vanno a vivere le migliaia di dipendenti di questi gruppi, rinunciamo ad avere le multinazionali, la manifattura, andare sui mercati, lasciamo le quote di mercato ai francesi, agli americani, che notoriamente sono tutte vergini, anzi demi vierge e quant'altro, e smettiamo di fare esplorazione, smettiamo di vendere lo spazio difesa, va bene così. Ma quante brioche hanno in casa queste anime belle che mi scrivono? Allora, professor Gino Cazzola, esperto di previdenza, docente di diritto del lavoro, buonasera. Buonasera a lei. Non la interrogerò su l'ENI e su Finmeccanica, che non ne posso più. Ma però più, sono d'accordo con le cose che ho sentito. Ma no, dire ma io non. Allora, un conto sono le inchieste della magistratura, no? Ma non è che altra cosa è dire che ENI, abbiamo poche multinazionali di cui possiamo essere fieri. Ma voi pensate che i tedeschi, i francesi, gli americani, i britannici della Shell, quando vanno in giro per il mondo, vadano con i fiori? Sì, se noi processiamo quelli che devono pagare delle tangenti in Nigeria, no? No, ma io faccio notare una cosa, non voglio andare su un tema che non c'entra con lei, però in Germania c'è una voce che i manager possono mettere e anche scaricare che si chiama spese di rappresentanza. Allora andiamo a vedere che cosa sono le spese di rappresentanza, il che non vuol dire legalizzare le tangenti, vuol dire non confondere tra i reati commessi da alcuni e guarda che ci sono inchieste per quello che riguarda Saipem, per quello che riguarda anche l'ENI, però parlo della Nigeria e dell'Algeria, con l'importanza dei gruppi industriali italiani, ok? L'importanza di avere dei gruppi industriali che competano con colossi internazionali. Non ce ne sono rimasti molti, visto che forse anche, anzi, la Telecom è di fatto già francese come controllo dell'azionariato. Per cui, dopodiché, ripeto, c'è anche una componente del paese che vive tra Virgilio e Carlin Petrini, che immagina che questo paese possa vivere di solo di biologico, solo di eolico, solo di caprette, solo di agnellini che brucano l'erba e solo di cibo vegano, va bene così, e molliamo tutte le produzioni industriali. Tanto la chimica già non ce l'abbiamo più, a Montesi non ce l'abbiamo più, e andiamo avanti così. E le telefonie, eravamo i numeri 1 e 3 in Europa, per colpa anche degli imprenditori, guardate come siamo arrivati. Cazzola, perché rispuntano le pensioni come tema? Io so che non l'ho capito, nel senso che abbiamo visto che la Corte dei Conti dice che sono stati così bravi a fare le riforme, anche troppo la Fornero, che il risparmio è superiore alle attese, 30 miliardi, qual è il problema? A parte la flessibilità in uscita che va sistemata per i lavoratori, soprattutto a partire da quelli usuranti, qual è, perché tornano fuori le pensioni? Senta, se vuole che io sia franco, ho l'impressione che le pensioni siano tornate fuori adesso perché il governo è in difficoltà. Lei si ricorda quando ci fu la sentenza alla Corte Costituzionale, che sentenza secondo me discutibile, no? Che disse che bisognava cassare il provvedimento che bloccava la rivalutazione economica. Renzi uscì dicendo che le nonne avevano diritto di andare ai giardini quando volevano con i nipotini, quindi il governo avrebbe pensato alla flessibilità. Era grosso modo un anno fa. Secondo me lui ha un momentino di difficoltà nel governo e ha tirato fuori questa storia degli 80 euro ai pensionati, se ci saranno le condizioni. Io trovo che la cosa si possa anche fare, diventa difficile mettersi di traverso, a parte il fatto che bisogna mettersi d'accordo sui numeri, no? Perché i numeri ballano. Si fa spesso confusione fra pensioni e pensionati, dimenticando che le pensioni sono 23 milioni, i pensionati sono 16 milioni, dimenticando che i pensionati che sono sotto la soglia del minimo, i 500 euro del minimo, sono 2 milioni e 2, mentre le pensioni sono 8 milioni e 100, e quindi e dimenticando per esempio che quelli che prendono il milione, il vecchio milione di Berlusconi, prendono 638 euro. Che non sono pochi, no? Per cui c'è anche il rischio, in buona sostanza, che chi è assistito vada sostanzialmente a sfondare il tetto di chi invece assistito non è e prende una pensione bassa con i suoi contributi. E questa è un po' l'idea che ho fatto io, insomma. Ecco. Allora, ci ha raggiunto anche Dino Peso del Sole 24 Ore. Dino, un attimo di pazienza al traffico. Tu hai fatto proprio sul quotidiano, su Sole 24 Ore, un calcolo ricordando la spesa di questi 80 euro. Che sarebbe l'estensione degli 80 euro anche ai 2 milioni e 200 mila pensionati col trattamento minimo, costerebbe più di 2 miliardi. Ma come già ricordava Cazzola, che militò nel passato nel centrodestra, lo ricordo per dovere di cronaca, quindi non è amico del governo, questo c'è poco ma sicuro, si rischia una distorsione con pensioni di persone, con pensionati ancora più incapienti. Ce la spieghi dopo il traffico. Focus Economia. Allora, Dino Pesole, al di là del fatto che sospetto che gli 80 euro siano elettorali, insomma, è un sospetto che non ha solo Cazzola, al di là della sua militanza nel centrodestra nel passato, il motivo per cui si rischia un effetto distorsivo, beh, uno potrebbe dire, vabbè, lo fa per motivi elettorali, ma meglio 80 euro che nulla ai 2 milioni e 200 mila di pensionati con trattamento al minimo, e quindi 2 miliardi. Qual è l'effetto distorsivo che si rischia? Come hai notato, ieri Renzi è stato anche molto prudente nell'annunciarlo e ha detto stiamo valutando, stiamo studiando, perché quando si mette mano a questa materia bisogna intanto conoscere bene qual è la platea, come legge Fornero Docet con il guaio, il grande pasticcio degli esodati insegna, perché poi questo è avvenuto. Allora, i calcoli sono quelli che poi conosciamo, sono dell'INPS. I beneficiari di questa possibile estensione del bonus sono 2,2 milioni, perché sono questi i pensionati che ricevono pensioni pensionati, quindi che ricevono trattamenti inferiori al minimo, quindi sostanzialmente 502 euro al mese. Ma poi c'è un problema che, devo dire, quasi nessun governo è riuscito a risolvere negli ultimi anni, che rischia appunto di avere questo effetto distorsivo cui tu ti riferivi. Il problema fondamentale è che nella platea dei pensionati ce ne sono altri 3 milioni che sono totalmente incapienti, cioè vale a dire percepiscono pensioni talmente basse da non poter fruire nemmeno dei benefici fiscali, perché non presentano nemmeno la dichiarazione dei redditi. Quindi tu avresti il paradosso, se posso spiegarlo, che alle pensioni minime verrebbero dati 80 euro, ma le pensioni sotto il livello minimo, per cui non sono neanche nella dichiarazione dei redditi, non verrebbe dato nulla. Domanda, perché io devo fare una precisazione a chi continua a scrivere su WhatsApp e SMS a 349-238-6666 sui temi Eni, meccanica e quant'altro. Non ho mai detto che la salute sia meno importante dell'economia, mai. Abbiamo detto che un conto è perseguire reati singoli, gli sversamenti di prodotti tossici sono un reato gravissimo ambientale, va perseguito, che uno si chiami Eni, Total o quant'altro. Altra cosa è veder trapelare da vari messaggi una cultura che una parte del paese ha, che è anti-industriale, per cui se tu fai aerospazio e difesa, fai anche armi, fai anche cannoni, fai anche aerei da difesa, oltre che aerei civili, se estrai petrolio devi andare a estrarlo nei paesi dove c'è, mica vai a San Marino a tirar fuori il petrolio, e vai anche in Nigeria, vai anche in Algeria. Se fai queste cose sei brutto, sporco e cattivo. Poi però ci si lamenta la disoccupazione. Secondo me questo è frutto di una cultura bucolica da gauche caviar o ambientalismo al caviale, chiamatela come cavolo volete, di chi ha tante brioche a casa e non si preoccupa poi di che cosa fanno i dipendenti di questi gruppi, e non si preoccupa di un paese che, in cui sono praticamente scomparsi quasi, se c'è un fatto per chi ho citato, i grandi gruppi capaci di competere su base mondiale. Poi arriveranno i cinesi, che notoriamente hanno una grossa sensibilità sul chilometro zero e sullo slow food. Andiamo avanti. Dino, io non ho capito una cosa però. Ma se costa 3 miliardi dare la flessibilità che chiedono molti lavoratori, una manifestazione dei sindacati lo scorso fine settimana, perché c'è gente con i lavori usuranti che con la Fornero si è trovata a non poter andare in pensione, dover ancora lavorare, o peggio ancora gli esodati a non avere più un posto di lavoro e non poter andare in pensione? Ma non faremo prima a chiudere quel capitolo? Ah, beh, io penso che sarebbe assolutamente questa corretta la strada, cioè quella di perseguire in ogni caso una operazione di sostegno alla flessibilità in uscita, perché mi sembra doveroso, e poi affrontare il capitolo che peraltro è assolutamente condivisibile, quello di sostenere i redditi di pensioni così basse. Però la strada non credo francamente che possa essere quella dell'estensione del bonus, intanto per gli effetti distorsivi che abbiamo appena ricordato, ma poi perché la strada maestra è quella di, intanto, non un provvedimento in corso d'anno, perché questo richiederebbe il reperimento di risorse che francamente non vedo da dove potrebbero venire, ma con la prossima legge di bilancio che ci sarà in settembre, in ottobre, fare lì però una manovra secondo me più complessiva, che sia una manovra fiscale, perché questa operazione deve essere sottoposta alla fiscalità generale, non può essere secondo me finanziata con operazioni che poi non possono che essere in qualche modo, come dire, provvisorie, perché no, ma infatti tu dicevi che si poteva promettere che per ogni euro risparmiato dalla lotta all'evasione o dalla maledetta spending review, che comunque continua a vedere molto molto in là, poteva essere messo in legge di stabilità: ogni euro recuperato dalla lotta all'evasione lo destiniamo all'incremento dei redditi e delle pensioni al minimo. Cazzola, anche lei è dell'idea che se bisogna spendere questi soldi si spendono per chiudere questa vicenda pazzesca, un grandissimo passo falso della Fornero, degli esodati e anche di chi con lavori usuranti è disponibile magari a rinunciare a un po' di pensione pur di andare in pensione? Guardi, io sono uno che ho avuto dei problemi, anche delle polemiche con la questione degli esodati. Però credo anch'io, insomma, che queste risorse ci sono, andrebbero impiegate per risolvere dei problemi e non per crearne dei nuovi, in qualche sostanza. L'altra cosa che voglio dire però è che secondo me si fa molta demagogia su questa questione della flessibilità in uscita, perché non la si dice solo per quello che riguarda i lavori usuranti, che è sicuramente un ragionamento da fare, no? a parte che anche la Fornero ha considerato l'aspetto dei lavori usuranti. Ma io voglio ricordare che in Italia non è vero che la gente non va più in pensione. Nel 2015 le pensioni di anzianità o di vecchiaia anticipata che si prendono all'età effettiva, e questi sono i dati medi dell'INPS, no? di 60 anni, 59 anni, no? Sono stati il doppio nel fondo lavoratori dipendenti delle pensioni di vecchiaia, e in tutto il sistema sono state di più delle pensioni di vecchiaia, che sono invece sui 66-67 anni sono gli uomini e sui 63-64 anni ci sono le donne del settore privato. Quindi questa idea che la gente sia costretta dalla riforma Fornero a stare legata al remo, no? Che non ha la barba bianca lunga, è un'idea che non ma io dicevo solo per concludere, se costa 2 miliardi 200 milioni, certo, e più o meno costa 3 miliardi chiudere, integrare la flessibilità, non sarebbe meglio pensare alla flessibilità in uscita? Anche se io ho dei problemi sulla flessibilità in uscita, penso, sono d'accordo con lei, probabilmente è meglio pensare a risolvere qualche problema di carattere strutturale piuttosto che ricorrere all'avventura, perché poi il governo è ossessionato, no, dal aumentare il reddito per aumentare i consumi e rilanciare la domanda interna. L'ha fatto con gli 80 euro e non gli è riuscita, l'ha fatta col TFR e non gli è riuscita, adesso prova a farlo con i pensionati. Ma finché non c'è, diciamo, sicurezza del futuro, finché non ci sono garanzie di tenuta, poi la gente questi soldi non li spende, incrementa il risparmio. Vabbè, è un mio grande spende. Cavallo di battaglia, se il cavallo non vuole bere, per quanta acqua tu gli dia, questo non beve. Dino Pesole, per concludere, ho 30 secondi scarsi, ma allora tutto questo riavvivarsi del dibattito, anche tu ritieni che sia, diciamocela tutta, perché ci sono le amministrative, per un motivo politico? Insomma, è difficile sfuggire da questo sospetto, comunque io penso che... Nel senso che... O non capisco io, prego. No, è difficile non condividerlo questo retropensiero, però insomma vediamola in senso positivo. Certamente il capitolo pensionistico va affrontato, ma non così, cioè non con annunci spot che secondo me rischiano poi di non produrre gli effetti. Lo si faccia questo, devo dire, in modo strutturale con la prossima legge di stabilità, e magari si abbia proprio francamente il coraggio di dire questa... Fatemi chiedere una cosa a Cazzola, di non so da cosa dice, ma Boeri parla troppo, Cazzola, perché qualcuno dice che il presidente dell'INPS dovrebbe parlare col governo, non fare dichiarazioni a ogni convegno in cui va. Sono d'accordo con lei, spesso parla anche a sproposito. Intendevo sui contenuti, però me, il presidente dell'INPS parla col governo, non va a un convegno e parla col governo, certo, non è che può... Non è che il padrone delle pensioni d'Italia, no? Che addirittura nel documento presentato l'anno scorso c'era persino una proposta di legge con la relazione tecnica e l'articolato. E questo mi sembra effettivamente un ruolo. Anche perché, se non ricordo male, il presidente dell'INPS lo mette lì il governo e lo leva il governo. Con questo, grazie a Claudio Cazzola, a Dino Pesole. Da Sebastiano Berisone le auguro buona serata, finisce qui la diretta da Sogno di Risparmio, domani torniamo in diretta Giuliano Cazzola, e domani torniamo in diretta dagli studi di Radio 24 in via Monterosa. Radio 24, la passione si sente.